Investire informati. Possiamo comprare la casa che vogliamo? Sappiamo quando andremo in pensione? O quanto costerà mandare all'università i nostri figli? Stiamo gestendo bene i nostri debiti? E se staremo male, avremo risorse sufficienti per affrontare le spese sanitarie? Per fare chiarezza su temi così importanti, ci vuole educazione finanziaria. Vabbè, insomma, cominciamo già, Mauro, a scaldare il terreno rispetto al mese dell'educazione finanziaria, che come sempre si svolgerà anche quest'anno ad ottobre, e noi ci arriveremo piano piano anche con delle nostre personalissime iniziative, a cominciare da quella che condurremo martedì prossimo 30 giugno dalle 15 alle 17 qui al Sole 24 Ore, la nostra Digital Roundtable Investire Informati. Insomma, al posto di fare Investire Informati soltanto il giovedì e soltanto in radio dalle 11 a mezzogiorno, questa volta Investire Informati lo facciamo su internet e tutti potete partecipare sul sito di Radio 24. Nella sezione iniziative speciali trovate tutte le istruzioni e anche il link, il bottone, insomma, per registrarvi e seguire martedì prossimo 30 giugno Investire Informati, tavola rotonda, round table. Insomma, abbiamo invitato un po' di professionisti del settore, esperti, docenti universitari, insomma, per cercare di capire che dobbiamo fare dei nostri risparmi, con i nostri risparmi, per difendere i nostri risparmi in questa epoca del Covid, e quindi porremo loro le vostre domande. Anche voi potrete porle, perché sarà possibile pure inviarci delle domande in diretta mentre si svolgono i lavori. Mi pare di avere detto tutto il necessario. No, non ho ricordato il sito, www.radio24.it. Questo naturalmente ci stava. E adesso spieghiamo cos'era la voce suadente che abbiamo ascoltato in apertura di Investire Informati, Deborah. Era una pillolina tratta dal sito di Poste Italiane, dove sono state pubblicate da qualche tempo 11 video lezioni pensate per contribuire a migliorare gratuitamente, perché le pillole sono pubblicate lì e chiaramente non si deve sostenere nessun onere per visualizzarle, per appunto migliorare le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria. Sono tantissimi gli italiani che si rivolgono al canale postale per appunto risparmiare, per sottoscrivere prodotti di risparmio, che generalmente sono quelli più semplici, buoni fruttiferi, libretti di risparmio appunto, che ricordiamo soprattutto aprivano i nostri nonni e che spesso troviamo anche in qualche cassetto delle vecchie case abitate appunto dai nostri avi. E allora questa iniziativa, lanciata qualche tempo fa da Poste Italiane, è stata interamente seguita da un grande amico di Due di Denari, che è Sergio Sorgi, fra i fondatori di Progetica, una società di consulenza molto molto impegnata sul campo dell'educazione finanziaria. Peraltro gli amici di Progetica realizzano tantissime iniziative soprattutto in Lombardia con il comune di Milano, ma è solamente una delle cose che fanno, perché ne fanno veramente moltissime in questo settore. Sorgi, buongiorno e bentrovato, grazie. Buongiorno, e se posso torno un po' a casa, perché il primo libro sull'educazione finanziaria lo pubblicammo esattamente 10 anni fa, proprio col Sole 24 Ore, quindi molto contento. Esattamente. Grazie Sergio. Corsi e ricorsi storici, ma allora queste pillole di educazione finanziaria che vengono diffuse adesso dal sito di Poste Italiane, sono pillole immaginate per risparmiatori, come dire, molto basici, molto come potrei essere io, insomma, uno che non sa molto, non per Deborah, ma per uno che ne sa poco come me. Vada, figuriamoci. Allora, innanzitutto noi crediamo che davvero pochi oggi richiedano una competenza specialistica e che molti sappiano poco, ma attenzione, non vanno biasimati per questo, perché noi facciamo altro, cioè chi non si occupa di finanza o di previdenza lavora e non deve essere necessariamente un esperto. Allo stesso tempo però l'economia personale, come diceva bene la voce introduttiva, è un tema di tutti. E quindi tutte le persone e le famiglie devono imparare a proteggersi, come si compra casa, a spendere meglio, tema rilevantissimo oggi, pensare alla fine lavoro o fare dei progetti di vita. Questo non va fatto con ingenuità, richiede davvero per tutti delle basi di educazione finanziaria, che forse non è neanche finanziaria, visto quello che ho detto, ma i programmi si rivolgono proprio a tutti coloro che non hanno avuto, né probabilmente hanno delle competenze finanziarie non necessarie per poter svolgere le attività dell'economia personale quotidiana. Sostanzialmente voi vi siete immaginati di coprire un po' quella distanza minima che consente almeno di dialogare alla pari con chi ci propone gli investimenti. Credo di capire che sia questo il vostro intendimento. Ma allora, posto che noi naturalmente siamo un consulente molto attento ai temi degli esiti, e gli esiti sono proprio comportamenti, cioè non ci interessa tanto oggi farcire di nozioni in un cittadino, ma esattamente dargli una mano a gestire bene la sua parte di lavoro, perché i progetti di vita sono nostri, non sono degli operatori, ma anche la relazione con il mercato. Perché senza mercato i progetti rimangono teorici, ma come ci si confronta, come ci si sceglie? E questo, se posso, non solo sul tema del risparmio, ma su tutto, a partire dai debiti, i mutui, le protezioni, la fine del lavoro. Ecco, la vita è così ricca di occasioni, di necessità, che richiede una bussola. Questa bussola è l'educazione finanziaria. Certo, intanto volevo elencare velocemente ai nostri ascoltatori i percorsi sul sito di Poste Italiane che si possono seguire. Ci sono i perché dell'educazione finanziaria e poi tra gli altri temi toccati welfare, assistenze e previdenze, corso di vita, fasi di transizione ed eventi di vita, la pianificazione finanziaria, mettere ordine, come si diceva, ai conti di casa, indebitarsi, perché, come monitorare la propria esposizione debitoria, proteggersi, la fine del lavoro e la necessità pensionistica. Sergio Sorgi, noi insistiamo molto sul tema dell'educazione finanziaria da tanti anni, ma il dibattito si è intensificato soprattutto negli ultimi tre da quando è nato il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, che si è posto un grande tema, si è posto una grande domanda: come facciamo a misurare i risultati di tutto quello che intendiamo fare sul territorio per migliorare le competenze dei nostri cittadini? Anche per voi questo è un tema molto interessante. Come Progetica, siete riusciti a fare una quantificazione dei risultati delle centinaia di iniziative che seguite, create anche proprio con il vostro contributo scientifico, Sergio? Hai colto un tema delicatissimo, perché l'Osservatorio Nazionale dice che le iniziative misurate sono molto poche, e questo è proprio il principale lavoro che dobbiamo fare. Ma la nostra scelta ai tempi fu quella di dare la misurazione a un terzo, e quindi ad esempio quando facciamo il partenariato col Comune di Milano, fu l'Università Cattolica col suo laboratorio di statistica a misurare gli esiti. Ma è proprio questo il tema cruciale, cioè oggi non è più come 10 anni fa che non si parlava di educazione finanziaria, oggi ce n'è tanta e non ce n'è una migliore o peggiore, ma ce n'è forse una un po' più utile e una un po' meno. E siccome noi dobbiamo tutti, e il Comitato ci aiuta in questo, essere utili, è proprio sulla misurazione dei comportamenti. Educazione finanziaria è come imparare a nuotare, non basta leggere un libro, ci vuole poi qualcuno che veda in acqua se le persone si comportano meglio. Questo è proprio il tema, secondo me, più rilevante da aprire nei prossimi anni, come si misura effettivamente di aver aiutato le persone a vivere meglio e non tanto noi misurare noi stessi nei processi o nelle capacità formative. E mi piace molto, Deborah, questa cosa di imparare a nuotare, perché dico, poi mica tutti bisogna diventare Federica Pellegrini, però stare a galla già è una cosa che anche con il denaro ha i suoi pregi. Sai che siamo molto in ritardo, Deborah, dobbiamo ringraziare Sergio Sorgi e rimandare a questo lavoro di educazione finanziaria fatto per il sito di Poste Italiane. Adesso tu dovresti aggiornarci garbatamente sulle borse, Deborah. Due di denari. E non a lunedì nero, non conosce default. Il Meassa e la Rossani sono distanziati. Vi propongono investire in formati. Non a lunedì nero, non conosce default. Avrei bisogno di un'informazione, ero in galleria e ho perso dove poter trovare la guida università. Vi ringrazio se potete darmi questa informazione, è importante perché deve iscriversi all'università mia figlia. Grazie, urgente. Prendendo l'ispirazione. Ciao Deborah e Mauro, vi volevo fare una domanda. Io ho dei soldi sul conto corrente, parlando con l'assicurazione dove deposito il mio TFR, mi dicono che avere tanti soldi sul conto corrente comunque non va tantissimo bene, perché uno, in 10 anni si perde il 10%, e due, perché da un momento all'altro potrebbero fare la famosa patrimoniale e portarti via lo 0,03, però capito, ti portano via dei soldi così un po' senza preavviso. Io volevo sapere, secondo voi è meglio investirli in un fondo con rischio zero, ovvero che tu li metti lì, loro ti danno il 2% in 10 anni, o è meglio provare un'altra forma di investimento? Chiedo a voi perché siete più informati. Grazie, salve. Dovremmo monetizzare. Deborah, adorabile direi questo ascoltatore. Sì, sì, ma... direi che è proprio l'ideale. Posso dare intanto, scusami, presentiamo subito il nostro ospite. Sì, sì. E diamo il benvenuto a Giancarlo Sandrin, che è responsabile per l'Italia di Legal and General, Legal and General Investment Management. Perdoni, mi si è attorcigliata la lingua. Perdoni, dottor sì, Sandrin. Sì, ma anche voi, Sandrine, presentatevi con una società con un nome più semplice. Stiamo scherzando, ovviamente. Troppe L, dottor Sandrin, per questa mattina. E dico subito all'ascoltatore che ci ha chiamato, che cercava la guida all'università, è in vendita in edicola, in abbinata al Sole 24 Ore. 50 centesimi più il prezzo del quotidiano. Quindi in edicola trovate la guida all'università, 50 centesimi più il prezzo del quotidiano, 118 pagine dedicate alle facoltà, agli sconti, alle spese dell'università, alle rette e alle prospettive occupazionali. Insomma, un po' tutto per scegliere, guadagnare e quindi di conseguenza risparmiare e investire. Ma dove investire, dice l'ascoltatore, che devo fare? Lascio i soldi sul conto? No, ma soprattutto posso dirti, Mauro, però, che trovo molto discutibile il comportamento dell'intermediario al quale il nostro amico si è rivolto, del quale è già cliente peraltro perché ha il fondo pensione sottoscritto con loro, che agita lo spettro della patrimoniale. Già siamo sempre tanto nervosi, no? Perché qua questi soldi ovviamente rendono poco, se li investiamo sul mercato azionario vanno sulle montagne russe. Abbiamo visto tra marzo e aprile quello che è successo e già ci siamo spaventati, e quindi anche che lo stesso istituto di credito o l'assicurazione agiti questo spettro nei confronti dei propri clienti, io lo trovo un comportamento molto discutibile, ma questa è una mia idea personale, e dovrebbe rassicurare il proprio cliente, di magari cerca di capire quali sono i tuoi obiettivi di vita e di conseguenza scegliamo anche il contenitore adatto per il tuo risparmio e i tuoi soldi. Ma a quanto pare vedo che ancora questo ragionamento si fa molta fatica a farlo, e martedì io direi che striglieremo tutti i nostri ospiti su questo. Che ne dici? Volentieri, non so che ne dice Sandrine, che consiglio potrebbe dare a un ascoltatore che si presenta, un risparmiatore, pardon, che si presenta con questo tipo di dubbi, dottor Sandrine? Beh, buongiorno innanzitutto, concordo con quanto ha detto Deborah Rosciani, quindi sicuramente è utile vedere un po' quello che il profilo di rischio dell'investitore, perché è chiaro che investire sui mercati finanziari, sui mercati azionari possono portare dei rendimenti interessanti nel lungo termine, però bisogna essere anche pronti a quelle che sono quelle forti volatilità, come si viene detto in gergo, quindi questo andare su e giù dei mercati. Bisogna avere un po' la prontezza d'animo di rimanere fermi e consistenti nella strategia, perché poi nel lungo termine sicuramente il mercato azionario può offrire qualcosa di più rispetto a un conto corrente. Poi naturalmente ci sarà la diversificazione, immagino, perché credo di capire che l'ascoltatore, ma lo prendiamo adesso, non è che vogliamo dare addosso, anzi ci è stato utile il suo contributo, il suo messaggio, perché l'ascoltatore sembra avere solo un canale di risparmio, che è quello appunto di un fondo dove va a conferire il TFR. Forse un altro utile consiglio dovrebbe essere quello di diversificare, per quanto pochi possano essere, no, dottor Sandrin? Sì, esatto, perché poi la cosa importante è capire anche quello che è un po' l'orizzonte temporale, quello che può essere anche la necessità futura, perché bisogna sempre ricordare che quando noi stiamo pensando alla nostra pensione è giusto pensare a quello che è il nostro livello di rischio, ma è altrettanto importante pensare a quanti soldi ci serviranno in futuro, quindi è utile avere un esperto, un professionista che ci aiuta a calibrare bene questa diversificazione tra strumenti monetari, strumenti obbligazionari, strumenti azionari. nessuno ovviamente investe il 100% nell'azionario. Questa certo. È la cosa più sicura che possiamo dire all'investitore. La diversificazione tra azioni e obbligazioni è comunque fondamentale. Il mix però, per cercare di capire il rendimento futuro, è molto importante. Gli serve un professionista per capire questo aspetto. Mentre sulla... Sandrine, ma... Prego, sì. Deborah, scusami. No, vai, termina. No, volevo chiosare dicendo che sulla patrimoniale, insomma, qui veramente sono esatto. Tra le n cose, forse ci abbassano l'IVA, forse ce la alzano, forse ci danno, no, il cuneo in busta paga non è forse dal primo di luglio, è vero che ci sarà una riduzione della pressione fiscale in busta paga, certo. Però ma ecco, patrimoniale tutto il resto non si a parte. Patrimoniale a parte, che potrebbe andare a rosicchiare i nostri soldi tenuti sul conto corrente. Sandrina, anche una pillola di educazione finanziaria le chiedo: quali sono gli altri rischi che si corrono tenendo troppa liquidità sul conto corrente? Noi sappiamo che l'inflazione è molto bassa, ma in prospettiva potrebbe anche aumentare, perché con tutta questa liquidità che le banche centrali stanno mettendo in circolazione, prima o poi questa liquidità dovrà essere ritirata e quello sarà il canale principale, alzare i prezzi. Quindi attenzione anche a quanti soldi si tengono liquidi sul conto corrente. Cosa pensa di questo approccio, appunto, adottato da moltissimi italiani che hanno tanto disinvestito recentemente, riposizionandosi in maniera liquida? Sandrine. Ma questo rientra un po' in quello che stavo appunto dicendo prima sul discorso di mantenere un po' i nervi saldi. Se abbiamo visto tutto questo disinvestimento e assogestioni, ci ha portato anche dei dati molto chiari in questo ambito, perché dai fondi comuni nel mese di marzo erano usciti circa 10 miliardi di euro. Tutti questi soldi molto probabilmente si sono presi un bel pezzo di quella che è stata la caduta dei mercati, senza poi beneficiare di quello che è stato invece il rialzo. Quindi la componente fondamentale è che quando io definisco un'allocazione, una diversificazione, la tenga il più costante possibile, perché purtroppo muoversi sui mercati è un'impresa che sinceramente molte poche persone sanno fare anche in ambito finanziario, quindi un obiettivo un po' più di lungo termine è quello che è fondamentale, mantenere costante le proprie scelte, perché nel lungo termine sono quelle che rendono sicuramente di più. E appunto di conto concordo, mantenere comunque i soldi sul anche per potenziali prospettive di inflazione che ci possono essere negli anni a venire. Chiaramente non stiamo parlando di un obiettivo di 2-3 anni, ma nel tempo futuro sicuramente rappresentano un problema, perché l'inflazione comunque non è sotto zero, l'inflazione comunque è presente, quella va a erodere costantemente il patrimonio. E ancora, perché non mettere a frutto quel cash, quella parte monetaria, in qualcosa che possa aiutarmi poi in futuro con la pensione a darmi qualche reddito ulteriore da poter utilizzare per poter vivere. Allora, come tutti i giovedì, prima della viabilità, abbiamo un appuntamento, magari preceduto da una sigla. Telegrafico, il domandone, dovete rispondere telefonando a 800 24 00 24, solo così accettiamo le risposte. La domanda è molto semplice: quando ci sarà la nostra Digital Round Table, il nostro evento digitale di Investire Informati? Quando avverrà questo traffico? Due di denari. Il domandone di oggi non è sul risultato dell'Inter, come simpaticamente mi chiede al 800 24 00 24 un'ascoltatrice, e la ringrazio. L'Inter ha fatto 3-3 purtroppo e ha anche sbagliato diverse occasioni, ma il domandone invece non è su questo, ma è un altro: quando si svolgerà l'evento digitale, la Digital Round Table di Investire Informati con Deborah e con me? Si svolgerà tra pochissimo, ma quando precisamente? Rispondete a 800 24 00 24. E adesso torniamo a parlare di educazione finanziaria ai mercati con Giancarlo Sandrin, che è responsabile Italia di Legal and General Investment Management. Sandrin, ci siamo fermati sulla poca prudenza di tenere tanta liquidità sul conto corrente. Vogliamo ripartire da questo? Sì, assolutamente. Ma come stavamo dicendo, è importante poi riuscire a diversificare il più possibile il portafoglio, quindi andando al di là di quello che è il classico aspetto del conto corrente, cercando di riuscire ad investire anche in strumenti finanziari che consentano di andare a porre una parte del proprio portafoglio sulla componente obbligazionaria, ma anche sulla componente azionaria. Questo è importante perché, come avevate accennato anche in precedenza, tutti questi flussi delle banche centrali che hanno portato grandissima liquidità sul mercato hanno fatto sì che i rendimenti di molte classi di investimento siano particolarmente bassi, quindi anche sulla componente obbligazionaria, e anche lì è giusto diversificare per far sì di poter ottenere qualche rendimento effettivo. E anche la componente azionaria, seppurché abbiamo visto che è molto altalenante nell'ultimo periodo, ha un ruolo importante nella costruzione di un portafoglio nel lungo termine. Sandrine, noi invitiamo spesso gli ascoltatori, oltre naturalmente a risparmiare correttamente, secondo una corretta pianificazione finanziaria, obiettivi di vita, diversificazione eccetera, ma li invitiamo anche a leggere i giornali, ad informarsi rispetto a quello che succede attorno a noi, perché così quando il nostro risparmio ha il singhiozzo rimaniamo un po' meno colpiti e sorpresi, perché conosciamo le circostanze che provocano anche questi sali scendi. Allora, io sono rimasta molto colpita da quello che è accaduto ieri sui mercati, perché subito dopo la pubblicazione delle stime del Fondo Monetario Internazionale, che ci ha detto che quest'anno l'economia mondiale subirà un rallentamento del 4,9%, poi rimbalzerà molto nel 2021. Per l'Italia il tracollo dell'economia sarà veramente importante, oltre il 12%, il 12,8%, insomma, ma per tutte le economie i cali saranno molto importanti. Ecco, ieri la borsa ha reagito con una caduta pesante, come se fosse sorpresa di queste proiezioni, ma noi sappiamo benissimo che questo Covid sta determinando delle conseguenze molto rilevanti sull'economia, e forse il Fondo Monetario ancora non ci ha detto tutto, magari sarà costretto fra qualche settimana a esprimere una nuova revisione di questi conti, e sarà una revisione forse anche peggiorativa, perché questo non lo sappiamo. Allora, ci spiega per quale motivo, dopo un andamento assolutamente positivo e brillante delle borse che sembravano disinteressarsi totalmente alla crisi economica che stiamo vivendo, ieri sono rimaste così sorprese dai dati del Fondo Monetario, appunto dalle notizie da Washington? Cosa ne pensa? Cioè, non è che le chiedo una spiegazione, ma come pensa, cosa pensa di quello che è successo ieri? Ma il problema è proprio questo, capire quali sono le incognite attualmente nel mercato, perché i mercati finanziari, in particolare anche la componente azionaria, si muovono sulla base di stime di crescita, stime di rendimento delle singole società, e questo è già un esercizio che è molto difficile in una situazione normale, figuriamoci in una situazione come quella attuale. È vero che uno a prima vista potrebbe dire ma le borse crescono nonostante l'economia stia avendo un tracollo, è anche vero un altro aspetto, è vero l'aspetto che comunque erano già scese tantissimo, non tutti i mercati azionari sono tornati ai livelli di pre-Covid, sappiamo che il mercato americano è più vicino a questi livelli, i mercati europei sono indietro, in particolare se vogliamo il mercato azionario italiano. Quello che il mercato in questo momento fa fatica a capire un po' sono quelle le variabili che andranno a impattare sui mercati. L'esempio è quello che è venuto fuori con il Fondo Monetario, ma anche l'OCSE ha dei dati che aveva pubblicato poco tempo fa che non sono particolarmente positivi, anzi forse sono un po' peggio del Fondo Monetario di qualche punto. Ma la cosa incredibile è la volatilità di questi dati. Faccio un esempio molto semplice. In America il 26 marzo è stato quando hanno iniziato il lockdown. Il mercato si attendeva richieste di disoccupati, di sussidi, pari a 1,9 milioni. In realtà sono stati 3,2 milioni. La settimana successiva si attendeva quindi 3 milioni e mezzo, in realtà sono stati 6 milioni e mezzo. E da lì è cominciato tutto quello che è stato il mercato, la discesa molto forte del mercato, perché le stime non funzionavano più. Poi per fortuna sono intervenute comunque le banche centrali e anche una politica fiscale in molti stati in supporto, che ha fatto sì che non ci fosse uno scenario peggiore, quindi un cortocircuito tra le condizioni finanziarie e le condizioni dell'economia reale. E quindi da lì i mercati hanno ricominciato a riprendere più fiducia. I dati sono migliorati, anche i dati sulla disoccupazione hanno cominciato a migliorare, e l'aspetto vero che andrà a guidare i mercati nel prossimo futuro delle varie agenzie sono in realtà le stime legate a Covid, cioè la classica seconda ondata. Ci sarà una seconda ondata? Non ci sarà una seconda ondata? Sarà in autunno? Prima adesso con queste aperture che vediamo, con nuove chiusure che stanno avvenendo un po' in Cina, un po' in Germania, perché anche questo è stato un fenomeno, anche abbiamo visto in Germania che hanno cominciato a richiudere dei quartieri, ed è stato preoccupazione nei mercati. Certo. Perché è chiaro, c'è rimasto fuori tutto il tema dei campi Sandrine, la chiudo brutalmente, Mauro adesso risponderà con l'ascoltatore al domandone di oggi, ci rimangono fuori settori di investimento comunque interessanti, allora la riprenotiamo presto per un'altra puntata, così ci dice un po' come poter orientare al meglio in questo momento il nostro risparmio. Mauro? Qual è la risposta? Vai, Fra. Quando si svolgerà Digital Event? Prego. Si svolgerà il 30 giugno dalle 15 alle 17. Risposta esatta. A domani.